L'ora esatta di Radio Etna Espresso. Buonasera dal Marchi Club, sono le 21 in punto. Radio Etna Espresso presenta Marchi Club. L'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club, in diretta dal centro musicale Space Music a Cireale. Buonasera, buonasera a tutti voi che siete in ascolto. Ci ritroviamo, mio caro Riccardo, per iniziare una nuova puntata del nostro Marchi Club. È già una nuova puntata, nuovi ospiti, anzi un nuovo ospite che tra breve presenteremo. Ma io direi, fin dall'inizio, di ricordare tutti i contatti, perché vogliamo ricevere tanti ma tanti messaggi oggi. Perché siccome qui a Radio Etna Espresso, soprattutto il martedì sera tra le 21 e le 23, col Marchi Club siamo davvero interattivi, avete modo di interagire con noi, per esempio tramite il web. Quindi potete scriverci alla pagina Facebook del Marchi Club o di quella di Radio Etna Espresso. Ovviamente cliccate quel famoso tastino del like per rimanere aggiornati su tutta la nostra programmazione e le anticipazioni, vedere le foto degli ospiti, ma soprattutto interagire con noi. Quindi potete scriverci un messaggio tramite Facebook. Poi ancora c'è il 349-850-8509 per interagire tramite WhatsApp. Ormai qua anche noi siamo tecnologici al massimo e quindi potete scriverci un classico SMS o, se preferite, tramite WhatsApp. Potete anche ascoltarci in streaming sia tramite il nostro sito www.radioetnaespresso.it oppure tramite la nostra app. Quindi basta cercare Radio Etna Espresso sul vostro store, che sia il Play Store, l'Apple Store, quel che sia, e scaricarla gratuitamente. Quindi davvero i metodi per mettervi in contatto con noi ci sono, la musica c'è, la radio e la nostra diretta radiofonica c'è, noi ci siamo. E allora, che dire, diciamo proprio giusto solo il nome del nostro ospite di questa sera, poi parliamo con lui direttamente tra qualche minuto. Allora, oggi avremo qui a suonare dal vivo, come in tutte le puntate, visto che il nostro format parla di questo, parla della musica live, parla della musica emergente, della musica indipendente. Oggi avremo qui un personaggio che non è così emergente, è abbastanza è noto, un cantautore tanto noto. Storico siciliano, è Antonio Monforte. Perché quest'oggi abbiamo una chicca qui al Marchi Club: anziché ospitare, come succede spesso, delle band che siano più o meno numerose, quest'oggi abbiamo davvero una chicca, una perla, perché Antonio Monforte è venuto qui insieme ai suoi amici, ma si esibirà live per noi. Come dire, chitarra e voce, possiamo dirlo, lo annunciamo direttamente. Allora, ci ritroviamo proprio tra qualche minuto insieme a Antonio Monforte qui al Marchi Club. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Sono straniero anche a casa. Ma tu chi sei? Sono straniero tra le tue braccia. Leggi segni sulla mia faccia. Che cosa hai? Superuomo sottomesso. Sono un umano complesso. Contro forze di gravità, contro La nuova dei Litfiba, Straniero, da queste atmosfere un po', a me ricorda un po' il Far West, non so, qualcosa loro, di molto texano. Loro hanno avuto sempre questo vizietto, ricordo un brano, si intitolava Tex. Infatti, visto, avevo appena detto Tex, mi sa proprio di qualcosa di molto texano, molto da Far West. Ma questo oggi invece andiamo decisamente oltre. In Sicilia, quindi esatto. Andiamo oltre. Oltre il genere Far West, Tex o qualunque altro tipo di genere musicale, perché abbiamo qualcosa di veramente originale. Dicevo prima una chicca, una perla tutta made in Sicily, perché è il caso di dirlo, e quest'oggi è qui da solo con la sua voce e la sua chitarra, ma beh, come dire, si fanno sentire alla grande, non ha davvero bisogno di presentazioni. Lui è Antonio Monforte ed è qui questa sera per la terza puntata del Marquee Club. Caro Antonio, ciao a tutti voi, buonasera, come si sta lì in sala? Si sta benissimo, c'è calluccio, vero? Sì, ma poi noi musicisti siamo abituati alla sala prove, quindi diciamo. Quindi l'ambiente ideale, è il tuo habitat naturale, sì, insomma, sì. Ecco. Beh, caro Antonio, io direi, giusto così, cedo la parola a Riccardo per fare anche qualche cenno, perché chi si è magari proprio sintonizzato adesso sulle frequenze di Radio Etna Espresso vuole un po' capire di chi stiamo parlando, se magari è davvero difficile, però potrebbe anche non conoscerti ancora. Quindi, mio caro Riccardo. Allora, io partirei dall'inizio, però lo faccio in maniera breve e veloce, anche perché per dire tutto, anche se noi chiedessimo a Antonio, lui stesso non ci saprebbe raccontare tutto, ecco. Possiamo dire che Antonio Monforte è un cantautore, ma è anche un compositore che ha scritto anche per altre persone, ma lo conosciamo più come cantautore siciliano, anche se adesso ha avuto una evoluzione, anche se in realtà abbiamo scoperto dietro le quinte che non è stata proprio un'evoluzione, in quanto lui ha iniziato a scrivere in italiano. In italiano, poi è passato un po' al dietro. È un chitarrista pure, insegna anche chitarra. La sua formazione musicale inizia negli anni 80 e negli anni 90 inizia a lavorare come turnista, chitarrista. Quindi lavora in diversi studi di registrazione a Milano, arriva a suonare con alcuni artisti che noi conosciamo, uno dei quali siciliano, Gianni Bella. Qualche anno dopo fonda i Fili, un do minore, è la band, diciamo, con cui molta gente qui dalle nostre parti lo ha conosciuto. Registra, produce 3 album. Nel 2004 collabora con il regista Giacomo Maimone, registra il brano con cui è diventato noto. Qual è il brano, lo sai? Sogno pazzo. Ne parlavamo prima proprio con Antonio, adesso poi ci soffermeremo anche un po' su questo pezzo, perché mi sembra di capire che lo rappresenti in un certo qual senso. E diciamo, è stato un momento importante del suo percorso artistico, ma non si ferma tutto lì. Il percorso musicale di Antonio va avanti fino ad arrivare a un altro, arrivare al disco Semu Siciliani. Nel 2013 vince il premio Ara di Giove. Successivamente un altro disco, cerco di andare veloci perché la storia è bella lunga. È davvero lunga. Cioè, sembra disco, quasi una di un disco che si titola Fuoco Nero. In quel periodo in cui lui ha registrato e ha pubblicato Fuoco Nero, devo dire che è il periodo in cui l'ho conosciuto fisicamente ad Antonio. Prima, così, per sentito dire, sogno pazzo, l'ho visto in faccia, è capitato qualche volta che abbiamo scambiato qualche parola. In questa fase diventa anche scrittore, perché con il disco Fuoco Nero viene abbinato una pubblicazione, un racconto che si intitola Fuoco Nero pure, quindi abbastanza facile. In contemporanea esce quindi, appunto, per Algra Editore, Fuoco Nero, il racconto. Qualche tempo dopo vediamo che lui inizia a suonare live, l'abbiamo visto in diversi posti, ha promosso bene questo disco. Sono passati 3 anni, circa 3-4 anni, e adesso è qui a farci sentire un altro disco registrato, stavolta chitarra e voce. Il disco si intitola Cuore Tradito. Basta chitarra e voce per capire i brani. Questi brani arrivano in maniera abbastanza diretta, quindi non c'era proprio di bisogno, probabilmente, di andarli a arrangiare con altri strumenti. I brani sono registrati stavolta in italiano, quindi un cambio un cambio anche di un umore, cambio di direzione. La musica ha, diciamo, delle atmosfere differenti. Manca forse quell'atmosfera di festa che sentivamo nei precedenti dischi, però racconta sempre le storie, diciamo, della vita, vita quotidiana anche. A volte ascoltando questi brani si percepisce una sorta di tormento interiore, i tanti dubbi e le tante cose che quotidianamente si affronta e che ha sicuramente affrontato anche lui e ha voluto raccontare in questo disco. Antonio. Sì, ho detto tante cose, perché tantissime. Ci sono altre cose da dire, ma non le posso dire qui, perché dovremmo prendere almeno 4-5 puntate di Marchi Club. Sì, infatti, no, vabbè, diciamo che riassumendo un po', diciamo, ne ho fatta di strada, quindi ho iniziato appunto come chitarrista, ho iniziato a suonare con i gruppi in giro, ho fatto il turnista, ma avevo sempre l'esigenza di esprimermi, di raccontare le mie storie attraverso le canzoni, per cui quando mi definisco, preferisco definirmi un cantautore vero e proprio. Bene, allora io direi, giusto così per avere un assaggio e un anticipo, iniziamo ad ascoltarci uno dei tuoi pezzi, tratto dall'ultimo album, così anche chi è in ascolto inizia a farsi un'idea e così facciamo un po' sorgere tra la suspense e quella curiosità nei nostri ascoltatori. Rimanete sintonizzati perché Antonio Monforte sarà qui live per noi con Nuvole. Sono tutte qua. Le tocchi con la mano. Come nelle favole. Le vedi queste nuvole? E spingi con la mano e soffi con la bocca e la malinconia diventa poesia. Arriva la libertà. Da da da da da da da da. Da da da da da da. Da da da da. Ritorna la libertà. Torna la libertà. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Con Ulisse. Sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe di Ulisse. Se vuoi provare vera comodità, calza sempre da Ulisse. Sobrio, eleganti, ma sempre Ulisse. Per lui, per lei, per i bambini. Se cerchi l'eleganza, ma vuoi anche sostanza, per essere alla moda, scegli in grande, qui si trova. Anche per bambini, i modelli più carini. Le scarpe per lo sport, gli accessori un po' per tutti. Ulisse già si sa, niente trucchi. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Pizza Family, stuzzicheria, focacce farcite, scacciate, pizze sfiziose e maxi. Se prendete tre pizze, Pizza Family vi offre una margherita in omaggio. Pizza Family, Corso Savoia 143 a Cireale, servizio a domicilio. Chiamateci allo 095 764 98 70 o al 338 71 83 469. Non chiuderti in difesa, vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco! Radio Etna Espresso. Marti Club. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dylan con Knockin' on Heaven's Door. Molti conoscono la versione coverata dai Guns N' Roses. Aiuto, Guns N' Roses. Niente, ancora so qualche lascito del Maligole dell'altra volta. Io oggi onestamente ho la lingua che si blocca, non lo so. Va bene, rimane... facciamo una cosa. Chiediamo al nostro Bertani quasi quasi, non so, ci stappa qualcosa. Io direi che siamo in un bel club, è anche il momento di gustarci magari una birra, qualcosa. E nel frattempo direi anche di invitare tutti coloro che al momento sono in ascolto del Marchi Club, magari, non lo so, tramite lo streaming, tramite le frequenze di Radio Etna Espresso, a venire, eccolo, sempre operativo il nostro Bertani. Iniziamo qua con le bollicine, perché questa sera siamo un po' più frizzantini del solito. E vi dicevo, siete tutti invitati a partecipare proprio fisicamente qui al Marchi Club, al nostro bellissimo format radiofonico che è giunto alla seconda stagione, perché siamo in via Sciarelle numero 23, ospitati gentilmente dal centro musicale Space Music, che ringraziamo ovviamente perché ci ospita ogni martedì nella fascia oraria tra le 21 e le 23. E voglio dire, non è una cosa da poco, perché la radio si fa anche la sera, direi anche quasi notte, perché finiamo un orario davvero tardo, ma siete davvero tutti qui invitati perché abbiamo quell'atmosfera proprio da club. E proprio parlando di club, non può mancare la musica, perché questo programma si basa sulla musica, quella inedita e live dei nostri artisti che vengono a trovarci ogni martedì. E questa puntata c'è qui con noi Antonio Monforte. Antonio. Prima Antonio abbiamo sentito un brano di Bob Dylan. Io so che a te piace quest'artista, in qualche modo ha contribuito alla tua formazione musicale. È il mio artista preferito, quindi sei molto legato a lui. Sì, poi tra l'altro questa versione di Knocking on Heaven's Door è stupenda, sia la canzone, così anche fatta chitarra e voce, quell'arrangiamento, che è la versione originale, esatto, la colonna sonora del film Pat Garrett, Billy the Kid. Aspetta, che anno era? Era la fine degli anni 70. Ecco, appunto, non lo ricordo perché 70, neanche c'ero, sì. Io, ecco perché non lo ricordo. Sì, quel film bellissimo, è la storia dello sceriffo che insegue questo bandito. E torniamo un po' al Far West, sì, di cui parlavo proprio prima. Bob Dylan in questo film fa anche una particina come attore. Appunto, lui ha recitato in qualche film, se non vado errato, che poi essere un musicista pieno. Sì, poi ha realizzato anche dei film suoi con dei tour in giro per l'America. E quindi, diciamo, ma dimmi una cosa, tu invece ne hai fatti i tour in giro? Sì, io suono da sempre. Da quando eri proprio giovincello? Cioè avrei avuto 20 anni, credo. Anche prima, ho iniziato veramente il primo live che si può dire pagato, ecco così. Quello diciamo ufficiale. È stato che avevo 16 anni. Quindi eri proprio piccirillo, è il caso di dire, si può dire. Sì, ho iniziato prima in un locale, in una pizzeria, eravamo con un trio, facevamo brani così italiani. Rock and roll, no? Sì, no, facevamo brani italiani, facevamo qualche brano internazionale, qualche hit. E poi ci vide un assessore del luogo e ci fece fare una serata in piazza. E quindi così vi lanciò, vi, sì, poi il trio diventò, si sganciò sul palco, sì, il trio diventò un sestetto, ecco. Avere delle foto di Antonio Monforte a 16 anni sul palco, sì, ce li ho. E allora perché non le hai portate? Perché così magari è la volta buona che ti rimitiamo. No, devo dirti la verità, è da qualche settimana che sono scomparso. No, sono scomparso dai social, perché diciamo non sono stato più collegato su internet. Guasti tecnici, semplicemente. Sono stato fuori, quindi. Sono stato a Parigi in giro, poi mi si è rotto completamente il telefono, ecco. E quindi sai, una volta che non hai il telefono in un'epoca del genere, davvero in un'epoca difficile. Del genere praticamente ti rendi conto che sei tagliato fuori dal mondo. Sei tagliato fuori dal mondo, però ti devo dire che mi sto disintossicando. Sì, quindi assolutamente ci sto bene in questa situazione. Guarda, io ti dico proprio così un aneddoto al volo. Partì una volta, tra virgolette, come suol dire, disgraziatamente, per andare a Londra con gli amici, 8 giorni. Salgo sull'aereo, passavo il gate, tutti i controlli e tutto quanto, mi imbarco, mi giro indietro e dico: oh cacchio, il telefono, ho perso il telefono apparente imbarcandomi sull'aereo. Bellissimo. Al che ti dico che ovviamente la mamma disperata mi ha cercata per tutto il giorno, l'amica mia aveva dimenticato, perché si parla di qualche anno fa, ad attivare le chiamate internazionali, l'altro amico mio, perché eravamo un bel trio assortito, non aveva non so cose, minuti, promozioni, roba varia all'estero, e quindi siamo ritrovati 3 baldi giovani in giro per Londra, in periferia tra l'altro, in un quartiere di nome Stratford, che prende, assomiglia un po', sai, a GTA il gioco, davvero una cosa allucinante, ti giuro, anche nei colori, marciapiedi, tutto. E quindi mi ritrovai a Londra una settimana senza telefono, al che poi la sera riuscì a contattare la mamma. Fra poco aveva, veramente il caso di dirlo, un po' alla siciliana, aveva chiamato quasi i carabinieri, sì, per però, dire, ho perso mia figlia. Ma perché vabbè, capita. Perché è impossibile oggi pensare a un figlio che parte, esatto, e arriva e molla fuori il telefono. No, e non ha il telefono, perché io io appartengo alla generazione di quelli che partivano dalla stazione di Catania, partivo col treno perché mio padre era ferroviere, quindi sfruttavo i biglietti gratis, quindi facevo sale e scendere tutti i treni, scendevo così a zonzo nelle città, facevo viaggi incredibili sempre con la chitarra dietro. E all'epoca, quando appunto appena diciottenne, arrivavo che so a Rimini oppure alla stazione Termini di Roma, scendevo, avevo una busta piena di gettoni e infilavo questi gettoni appena arrivato. Mia madre mi rispondeva: ciao mamma. Intanto lei nel frattempo mi cominciava a dire com'era il tempo, se avevo mangiato. Vabbè, classiche preoccupazioni. Le classiche cose. Nel frattempo i gettoni erano tutti calati giù. Addio. Chiudevo, erano finiti i gettoni e ci risentivamo poi quando stavo per tornare a casa. Allora, ma erano altri tempi. Assolutamente. Visto che tu sei sbarcato a Rimini, sei sbarcato a Parigi durante questi scorsi giorni, ma sei sbarcato anche qui al Marchi Club questa sera. Quindi, sì, siccome hai sempre la tua chitarra con te, perché yes, per fortuna non l'abbandoni mai, e noi abbiamo davvero bisogno di musica, vogliamo sentire la tua voce, la tua musica inedita e sottolineo live qui al Marchi Club, perché grazie a questo format radiofonico diamo spazio agli artisti per esibirsi con la loro musica inedita, ci tengo davvero a sottolinearlo, e soprattutto suonata live. Quindi, caro nostro Antonio, presentaci il pezzo che ci regali. Sì, è un brano che fa parte sempre del nuovo disco, si intitola Tempi Moderni. Nuda sulla spiaggia, quando aspettavi il sole, com'eri bella Maria, c'era più fame ma meno ipocrisia. Facciamo l'amore ancora un po', com'eravamo noi, più semplici. E li chiamano tempi moderni, fatti di progresso e civiltà. E li chiamano tempi moderni, di ragazzi che muoiono per strada, i tuoi figli di sera tornano tardi. E adesso che cosa gli dirai? Di guardarsi le spalle dalla polvere bianca, di odiare la guerra che non è mai stanca. E intanto gli aerei volano sulla nostra testa, e tremano i vetri, cadono i muri che danno speranza. I nostri sogni non sono grandi abbastanza. E se mi chiedi come sto, se mi chiedi cosa ho fatto in questi anni maledetti, che vuoi che ti risponda? Falli passare tempi moderni, falli passare tempi moderni, tutto d'un fiato, tempi moderni. La nostra testa, e tremano i vetri e cadono i muri che danno speranza. I nostri sogni non sono grandi abbastanza. E se mi chiedi come sto, se mi chiedi cosa ho fatto in questi anni maledetti, che vuoi che ti risponda, che vuoi che ti risponda? Falli passare tempi moderni, falli passare tempi moderni, tutto d'un fiato, tempi moderni, tempi moderni. Se pensi cos'è stato come un film del passato che sprigionano nostalgia come un album di fotografie che è chiuso troppo in fretta perché la vita non ti aspetta. Si deve andare avanti anche con i tuoi rimpianti. Falli passare tempi moderni, falli passare tempi moderni. Tutto d'un fiato moderni è il primo pezzo che Antonio Monforte ci regala qui live al Marchi Club, mentre iniziano ad arrivare tantissimi amici. Già vedo qui saluti in corridoio qui al centro musicale Space Music in via Sciarelle numero 93 ad Acireale, e iniziano anche ad arrivare, sì Riccardo, i primi messaggi. Quindi intanto salutiamo Vincenzo perché ci ha appena scritto, e adesso leggeremo anche gli altri messaggi che arrivano. Ma io vi invito ancora nuovamente, venite qui alla Space Music perché stiamo iniziando a popolarci qui, diventiamo tanti. Eh sì, Vincenzo ci aveva proprio chiesto, sto leggendo giusto il messaggio, un pezzo di Ligabue che è Venerdì non ci rompete, vabbè quelle cose lì non lo possiamo dire in radio, però è Ligabue. Questa sera vado fuori, sento troppa compressione, meglio uscire che scoppiare. Io ed il mio amico Carnevale capitiamo nel locale dove abbiamo avuto il nostro bel da fare. Da quanto non veniamo e non manchiamo, ci carburiamo con un aiutino che è venerdì. L'ingresso sembra un po' più stretto, forse han tolto dagli specchi, io mi sento un po' impedito. E lo sapevo, avrei scommesso che la musica non cesso, ma comunque noi avremmo resistito. Che adesso c'ho bisogno di rumore e non pensare al freddo che c'è fuori, che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Arriva un tipo che mi offre un po' di Viagra e poi mi dice che lo mette molto poco. E le ragazze sono sudate, sono giovani e impegnate, che ballare adesso non è mica un gioco. E un paio che ci lasciano provare, e insomma non andiamo mica male, che è venerdì. Fighetti a dirci quanto siamo vecchi e ad insultarci che c'erano prima loro. Si passa presto agli spintoni, uno di loro ha la pistola, sento il freddo della canna sulla gola. Mi dice vecchio hai già la vita corta, ma se ci tieni proprio te l'accorcio. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni, qualunque cosa sarà il minore dei mali. Che è venerdì. Ed il respiro piano piano ci ritorna, e qui fuori fa le nuvole di fumo. Siamo sdraiati sul caprame, quelle stelle sono vere, almeno qui non ci sparerà nessuno. E Carnevale si sta sbellicando, e io che lo sfanculo e poi mi aggiungo che è venerdì. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà un minore dei mali. È venerdì. ci rompete i coglioni. Qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Che è venerdì. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. La Sicilia traslochi. Trasportiamo delicatamente le vostre cose e case. Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, modifichiamo nei nostri laboratori mobili e cucine. Personale qualificato e la copertura assicurativa vi garantiscono la massima serenità in tutte le fasi del trasloco. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, scala mobile, viaggi settimanali da e per il nord. La Sicilia traslochi, via Veneto 52 a Cireale. Per info www.traslochilasicilia.it. A Cireale 095 89 16 45. Catania 095 36 54 45. Giarre 095 93 19 47. Andiamo a prendere un panino a stazzo? Col pesce spada? No, con la salsiccia, la carne o le polpette di cavallo, le cipollate. Panino Beach? Lo gusti in riva al mare, ma è con buonissima carne. Trinca di cavallo di vitello, salsicce di suino o pollo condita, puntine, involtini al pistacchio, tutto cotto alla brace a vista. Panino Beach, panineria, carnezzeria, insalateria, panini gustosissimi con 50 tipi di condimenti diversi, birre nazionali ed estere. Nuova copertura esterna, ambiente riscaldato, locali accoglienti e giovanili, dove puoi seguire anche le partite di UEFA Europa League. Panino Beach a Stazzo, in via Spiaggia 22. Per info o prenotazioni 095 87 18 80. Ci trovi anche su Facebook. Dal mese di aprile, aperto tutte le domeniche anche a pranzo. Non chiudete la porta alle opportunità. Con la Falegnameria Luca potete cambiare e coibentare la vostra casa con eleganti infissi esterni, risparmiando il 65% della spesa attraverso sgravi fiscali. Falegnameria Luca dal 1972. Infissi esterni ed interni in legno, alzanti scorrevoli completi di certificazione per la trasmittanza termica e CEE. Produce artigianalmente una vastissima gamma di meravigliose porte interne su misura, in massello, tamburato, pantografate, laccate, avvalendosi delle più moderne tecnologie e su misura anche armadi, cucine, mobili. Falegnameria Luca dal 1972, via Eugenio Montale 85, Santa Maria La Stella, Aci Sant'Antonio. Per info 095 88 58 68. L'arte di saper fare prodotti di pregio è la filosofia che contraddistingue da sempre Masseria Raciti. I prodotti a marchio Masseria Raciti sono genuini, sicuri e soprattutto gustosi, perché è frutto della continua ricerca della qualità, coerenza con le tradizioni e attenzione verso il consumatore. Masseria Raciti, il saper fare buone cose. Ciao a tutti, dal 29 marzo, tutti i mercoledì, parte un nuovo appuntamento su Radio Etna Espresso, Garam Masala, dalle 20 alle 23 con Salvo Borrelli e la regia di Roberta Agosti. Attraverseremo i territori del funky, del soul, dell'afro, dell'hip hop, della disco classica e riedite, house e deep house, tra down tempo e up tempo. Un viaggio tra i suoni del clubbing con il suono buono, qui su Radio Etna Espresso. Club. Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa avevi da fare? Di tanto importante da non poter proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire. Sì, ti ho capito, ti interessa più la scuola. E poi del resto chissà come sei bravo. Ma scusa, tra i vari interessi che hai, dimmi che posto mi dai. Ti voglio bene, l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Ti voglio bene, a un certo punto ti devi dare. Ti voglio bene, puoi farti eternamente contento. cosa me ne frega del vestito che hai, mi piace come sei. Non mi devi trattare come tutti quei maschietti che ogni tanto ti fai. Chissà che cosa pagherei per poter vedere dentro quella testa cos'hai. Se mi stai prendendo in giro, guarda che ti giuro, non ti perdonerei. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai non scherzare. Ti voglio bene, smetti di giocare. Ti voglio bene, a un certo punto ti devi dare. Iniziati gli anni 80, Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. Beh, quante cose a volte nella non vita abbiamo non capito. Non si capiscono. Io continuo a non capire mai tante cose. Senti, cara, io pensavo una cosa. Dopo che dici se facciamo un salto da sketch? Io direi di sì, perché vabbè che qui ok, siamo in un club, si beve qualcosa, ma a un certo punto arriva anche un po' di fame, no? E allora il nostro classico punto di ritrovo ogni martedì, quando finiamo il Marquee Club, è quello, è sketch, caffetteria e fumetteria, che è aperto a colazione con tanti frullati, estratti preparati sul momento e prodotti da forno. Ma è aperto anche nel pomeriggio con la caffetteria, fumetteria come punto di ritrovo per un aperitivo e squisite bevande calde. Ma è aperto poi anche alla sera. Quindi davvero fa orario continuato tutto il giorno, offrendovi i ramen, i panini sketch, le insalate, un ampio menù. Tutti venerdì sera musica live. Questa settimana eccezione, perché mercoledì 22 marzo, cioè domani, Riccardo Mazzaglia con la sua musica acustica in concerto. E venerdì 24 marzo i Cotton Club Project live da sketch. Potete la sera gustare dei drink o delle birre a prezzi molto vantaggiosi, perché se dite di aver ascoltato questo spot al Marquee Club su Radio Etna Espresso, potete richiedere gratuitamente la tessera per avere degli sconti sulle vostre consumazioni e per essere aggiornate sulle promozioni che di settimana in settimana Sketch vi propone. Sketch Caffumetteria in via Felice Paradiso 58 ad Acireale ed online anche su Facebook alla pagina Sketch Caffumetteria e al sito web www.sketchcoffeecomics.com. Ma io direi di ringraziare anche e soprattutto, oltre ovviamente al nostro sponsor, il nostro Marco Bertani, perché è qui a farci da regia, a sopportare questi due pazzi qui che si alternano al microfono, anche il nostro Giuseppe Pandolfo, perché ha la regia fonica e quindi cura tutto quello che è l'aspetto tecnico per regalarvi e regalarci la musica live dei nostri artisti che vengono qui ospiti ogni martedì. E ovviamente ringraziare anche per la concessione della Space Music, quindi di questo spazio che la sera e la notte ci ospita, e quindi grazie alla Consulta Giovanile Accese che ci ospita. Ma torniamo ad Antonio, perché è ancora qui in sala con noi. Antonio, ci senti? Ma vi sento benissimo. E parla ti leggermente a voce hai una voce bellissima, profonda. Sì, grazie. Dovresti fare radio. Potresti l'ho fare fatta, radio. L'ho fatta. Ecco, lo immaginavo. Ho fatto anche TV. La cosa comica è che non ho la TV da 10 anni almeno. Ah, caspita, non lo sapevo. E il telefono è andato, e la TV no? Così può ritagliare maggiore spazio per la scrittura di nuovi brani. Non è che sei un po' eremita, no? Sì, no, è che mi sto spostando man mano che l'età avanza, mi sono spostato dal centro di Catania fino, sto salendo verso l'Etna, quindi, man mano sì. Quindi la vita da eremita prende tra forma. Le montagne. Senti Antonio, una prima domanda da fare, sicuramente una cosa che molta gente si sarà chiesta. Abbiamo sentito questo nuovo disco, Cuore Tradito. Abbiamo notato che la maggior parte dei brani, perché uno in realtà non è in quel modo intendo sono scritti tutti in italiano tranne uno, che poi alla fine è una rielaborazione di Fuoco Nero, un brano contenuto nel precedente disco. Sì, quindi, questo cambio. La canzone è in italiano, poi c'è un ritornello in siciliano e poi c'è un finale in dialetto, è un esperimento che è nato insieme ad Alfio Grasso, che è l'editore di Algra, che mi ha permesso anche di pubblicare appunto nel precedente lavoro anche un racconto che parla di due amanti che decidono di vivere quest'amore, pur di viverlo si rifugiano sulla montagna, sull'Etna, fino alla sera fatale in cui scoppia un'eruzione tremenda e rimangono lì e decidono addirittura di morire, poi vengono trovati travolti dalla lava e vengono trovati pietrificati, abbracciati in questa scena. Avrei sperato un finale più felice. Tutto il resto del disco Cuore Tradito è scritto in italiano. Molta gente è abituata a immaginare Antonio Monforte come il cantautore siciliano di Iusugno Pazzo, Azzita. Ecco, questo cambiamento è un cambiamento oppure in realtà è un ritorno alle origini? No, non è che è un cambiamento, è che lo so, la gente magari è troppo attaccata alle abitudini, la gente basta che gli cambi un senso di marcia in una strada, entra in crisi, gli chiude una piazza e ti comincia a dire che non si può più lavorare. No, io musicalmente parlando mi esprimo in base al momento, cioè quindi ho una storia in testa e la scrivo in base alla lingua che secondo me è più giusta per comunicarlo poi alla gente. Quindi non è tutto, diciamo, tra virgolette, scelto o deciso a priori, ma in base a come ti sì, viene. Sì, infatti già sto preparando anche un altro disco e ti devo dire che c'è un misto di brani, come nel precedente, di brani in italiano e in dialetto. A differenza di Siamo Siciliani, che è stato un CD prettamente in dialetto siciliano, che poi, voglio dire, c'è chi preferisce il dialetto, c'è chi preferisce l'italiano, c'è. Ma noi preferiamo la tua musica, sai, quella live. Sì, però sai, per allora... fare musica e per farla bene non ti devi fossilizzare a pensare quello che la gente vorrebbe. E allora facciamo così, diamo l'occasione proprio ai nostri ascoltatori, a chi è qui in sala, perché ho visto altra gente entrare e unirsi. Sono entrati, devo dire, diversi musicisti. Infatti l'atmosfera inizia a farsi interessante anche qui nei corridoi del Marchi Club. Allora io ti invito nuovamente a regalarci un altro pezzo live, perché alla fine ti abbiamo invitato qui proprio per suonare, quindi facci sentire la tua musica e presentaci questo altro pezzo. Questo è un altro brano del disco Cuore Tradito, si intitola Se non fosse. Voglio stare solo a chiedermi perché il mondo è così triste e non parla più. Se non fosse per la musica e per le mie canzoni, senza emozioni non si vive più. Se non fosse per il cane che mi chiede come stai, mi vuoi bene amore, non mi lasciare mai. Cosa mi succede? Ho anche paura di questo stare bene, di questa civiltà. Se non fosse per i sogni e per le mie illusioni, io direi da sempre che niente cambierà. Mi metterò le ali per vedere come mi stanno, guardare poi dall'alto come siamo noi. Prenderemo il volo tenendoci per mano per un giro intorno al mondo, per vedere come si sta liberi nell'aria a chiedersi un'idea per finire questa guerra che tanto male fa. Non credo più niente, qui fanno la guerra, tagliano gli alberi senza pietà. Se tu sei nero, io sono bianco, che cosa è che importa? Sputiamoci in faccia, idioti pagliacci di questa città. Paura, pensi ai tuoi figli, che mondo ci sarà? Io non credo a niente, esiste questo Dio, e mi chiedo sempre che ci faccio qua. Mi metterò le ali e vedere come mi stanno, guardare poi dall'alto come siamo noi. Alzerò le mani per toccare il cielo, per tentare di salvare la mia anima. L'anima, ho perso l'anima. L'anima, io cerco. L'anima, non trovo l'anima. L'anima. Marty Club. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Anche furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, e lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose vive resti solo un giorno come le rose e come tutte le più belle cose. Vivesti solo un giorno come le rose. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Con Ulisse, sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe di Ulisse. Se vuoi provare vera comodità, calza sempre da Ulisse. Sobri o eleganti, ma sempre Ulisse. Per lui, per lei, per i bambini. Se cerchi l'eleganza, ma vuoi anche sostanza, per essere alla moda, scegli in grande, qui si trova. Anche per bambini, i modelli più carini. Le scarpe per lo sport, gli accessori un po' per tutti. Ulisse già si sa, niente trucchi. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Per Elemar SRL. Dacci un taglio, cambia il tuo look approfittando delle promozioni di Luciano Parrucchieri. Tutti i martedì taglio più piega più trattamento cheratina, 25 euro. Il mercoledì effetti luce più taglio più piega, 49 euro. Il giovedì colore più taglio più piega, 29 euro. Servizi limitati fino ad esaurimento prodotti. Luciano Parrucchieri ti consiglia sul taglio, il colore, la piega. È specialista per l'allungamento e l'infoltimento con capelli naturali. Tratta la tua testa con Thermal Antifrizz per avere capelli lisci, sani e brillanti. Luciano Parrucchieri, via Martinez 21, angolo Corso Savoia, a Cireale. Telefono 095 60 51 46. Facciamoci un selfie con lo sfondo dei faraglioni mentre mangiamo una siciliana. Non l'hanno acquistata in montagna per mangiarla in riva al mare. Ora le siciliane tradizionali, veramente buone, le fanno sul lungomare Ciclopi 215 di Aci Trezza, alla Vecchia Fontana. E come si chiama il posto? Alla Vecchia Fontana. Siciliane fritte sul momento, oltre a pizze e focacce di ogni tipo, anche da asporto. Puoi chiamare e ordinare al 347 67 63 5 130 e ritirarle calde calde. Seguici su Facebook. Chiuso il martedì. Riapertura mercoledì 29 marzo. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci. Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco. Club. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà. Sperato, dopo dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi la stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà tra le stelle accese. Abbiamo sentito Amore disperato di Nada, molti un pezzo storico. Molti hanno conosciuto questo brano con un'altra versione. Oddio, qual era? E poi lo diciamo dopo allora. Io in realtà conosco questo originale. Linea, senti, in linea abbiamo degli amici. Degli amici, è una band di Napoli, sono i Metaria, che ho conosciuto attraverso, diciamo, quella che è stata la compilation celebrativa del trentennale di 17 Re. Dei loro hanno registrato per questa compilation Re del Silenzio, insomma uno dei brani storici della band fiorentina. Al telefono in linea abbiamo Raul. Salve, buonasera a tutti. Oh, ciao Raul, come buonasera. Va? Tutto bene? Oh, tutto bene ragazzi. Che bell'accento. Noi sentiamo il tuo, ma sicuramente no, tu ma senti è il nostro. Bello, il loro accento è bello, a me piace. Accento vulcanico. Vulcanico, esatto. Noi ne sappiamo qualcosa. Di questi tempi delle nostre parti l'Etna ha fatto un po' i capricci. Devo dire che non ci fa stare, a volte ci fa preoccupare un ci po'. Ci fa tremare un po', si fa sentire. Senti, io volevo invece sta zitto zitto, ma quando sarà? Io mi auguro di no, insomma. Volevo dire proprio due cosette su questi nostri ospiti telefonici. Si tratta di una band che suona un hard rock, a volte sa anche di metal. Un po' più metallaro, sì. In italiano, questa è una cosa un po' particolare. Un po' una per quello che è lo scenario musicale internazionale. La musica hard rock, metal, siamo abituati a sentirla in lingua anglosassone. Di recente hanno pubblicato un disco con la Volcano Records, un'etichetta anch'essa campana. L'album si intitola Questo è il tempo. Tra i brani contenuti all'interno di questo disco abbiamo Echi e Frequenze, brano in cui ha preso parte Antonio Iazzi, nonché storico tastierista dei Litfiba. Potremmo dire tantissime cose su questa band, è una band storica. Pensa che questa band è nata nel 1999. Pensavo il 92, no, quando ero nata. Non esageriamo, 99. Raul, ho detto delle cose sbagliate, sono informato bene? Assolutamente sì, no, sono corrette le cose che hai detto, sì, dal 99, quindi sono quasi 18 anni di attività, diciamo così, non facile, tu lo potrai sapere, non è semplice, insomma, soprattutto... Io dicevo per il genere... E continuare a fare questo genere cantato in italiano, una cosa veramente... molto molto ardua, poi soprattutto al sud dell'Italia, quindi è vero, ne sappiamo qualcosa qui in Sicilia, anche se qui noi diciamo siamo belli, cioè la gente del sud è bella movimentata, bella viva, quindi voglio dire non comunque, è che si siamo intolleranti, si sa che la musica comunque di nicchia rimane, certo, di nicchia, diciamo il rock in generale spesso quindi... si ha una sfumatura ancora più hard, più dura, però dopo 18 anni di attività immagino che continuare a fare la propria musica, senti, con questa caratteristica particolare tra l'altro del cantato italiano sia davvero una bella bandiera da portare alta. Senti Raul, sì, una domanda che è la domanda classica che qualsiasi speaker radiofonico ti avrà fatto nella storia: il nome della band in breve. Allora, il nome della band in base a dei testi letti sarebbe un ipotetico pianeta della costellazione Alfa Centauri, dal quale proverebbe una sorta di civiltà angelica extraterrestre, un pianeta su cui c'è unità di vita, armonia di vita, rispetto, insomma per noi rappresenta una sorta di isola che non c'è, una sorta di speranza affinché questo avvenga sul nostro pianeta. Quindi un po' quello che per noi è la musica, una sorta di miracolo, e quindi tu quando scrivi una canzone tu puoi credere in qualsiasi cosa tu scriva, no, in quel momento. Quindi per noi questa è una speranza, Metale rappresenta la speranza di un altro mondo possibile, insomma. Ho capito, non avrei mai immaginato neanch'io una spiegazione dietro così cosmica dietro questo, questo nome, e infatti non mi ero documentato apposta. A me per piace fare questa domanda proprio per sentirlo dai diretti interessati, la spiegazione diretta parlata è sempre meglio di leggere qualcosa. Ecco, noi questa sera sentiremo un brano contenuto all'interno del vostro disco, che ripeto è Questo è il tempo, il disco. Io direi il singolo, ora lo presentiamo con calma, è un singolo su cui i Metari hanno girato anche un video, giusto o sbaglio? Esattamente, il video è stato girato nell'ex OPG di Napoli, ospedale psichiatrico giudiziario, ed è stato molto toccante come esperienza, perché abbiamo girato nelle celle, sono stati gli internati, c'erano ancora oggetti, lettere scritte da loro, insomma, quindi... Caspita, è stato un po' suggestivo. Molto toccante. Senti, Raul, è stato un piacere sentire la tua voce, poter parlare di questa realtà musicale italiana. Noi purtroppo abbiamo i tempi super stretti, dobbiamo correre qui in continuazione. Direi di far sentire a tutti questo brano. Ti salutiamo, ti abbracciamo. Questa Grazie. È Roghi di Idee dei Metaria. Grazie a tutti, sia pace su tutte le produzioni. Grazie ancora. Sto scappando via. idee, questi erano i Metaria, perché vi avevamo annunciato durante la prima stagione di questa nuova, scusate, prima puntata di questa nuova stagione del Marchi Club, che una delle novità all'interno delle nostre due ore di programmazione sarebbe proprio stata quella, diciamo, di un collegamento telefonico, di un'ospitata telefonica con band provenienti da varie parti d'Italia, quindi non soltanto i nostri ospiti qui in sala a suonare live per noi e per voi che siete in ascolto e qui presenti fisicamente alla Space Music di Acireale, ma avremmo ospitato proprio anche band di fuori, e questi appunto erano i Metaria, anche perché grazie a Riccardo, che curi anche il lato relazionale del nostro programma per quanto riguarda un po' le relazioni, in questo caso non tanto internazionali ma le relazioni pubbliche, dovresti fare anche il PR nella vita, secondo me. Ma ti riuscirebbe bene. Potrebbe essere anche una soluzione per monetizzare, visto che e oggi allora, è difficile con tutto quello che ha a che fare con speaker, la musica. Ecco. Cantante, conduttore, speaker radiofonico, esperto in pubbliche relazioni, io non lo so, cosa ti manca, Riccardo? Un altro sogno del cassetto. Manca tutto, diciamo, perché insomma fare troppe cose non è mai un bene. No dai, è sempre bene essere impegnati, basta certo fare le cose e farle bene, perché farle un po' così, farne mille e non concludere nulla, come suol dire, non è mai proprio il massimo della realizzazione, ma qui ci proviamo. Ci hanno provato anche tanti artisti che poi hanno fatto la storia della musica italiana, Lucio Dalla con Canzone. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, eccesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar. A stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso il vento, io non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si vive, stare senza di lei mi uccide. Canzone, cercala se può. Occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio qui cos'è? Non si vede. Vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, Marchi Club. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermate. Marchi Club, l'unico club di musica live in diretta radio. Su Radio Etna Espresso, ogni martedì dalle 21 alle 23, musica live in diretta dal centro musicale Space Music a Cireale. News musicali, interviste e tanti ospiti dal vivo. Tutti i martedì dalle ore 21. Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. What life has dealt to me, with every sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. What you've got, give me Bridge Your con Breathe, era il 1997. Qui ancora al Marchi Club, siamo quasi alla metà della nostra seconda ora insieme, così mi va di ricordarvi i nostri contatti, perché noi qui durante queste due ore siamo davvero tanto tanto tanto interattivi, e se sentite giusto in sottofondo una chitarrina è proprio quella di Antonio Monforte, che è qui in sala con noi questa sera. E allora, su questa splendida base di accordi, vi ricordo che c'è il 349 850 8509 per scriverci tramite WhatsApp, e ancora la nostra pagina Facebook, quella del Marchi Club, a cui potete cliccare mi piace per rimanere aggiornati su tutta la nostra programmazione, le anticipazioni, vedere gli scatti di queste due ore di programma ogni martedì sera tra le 21 e le 23, e anche e soprattutto per scriverci i vostri messaggi. Salutiamo ancora nuovamente Vincenzo, perché è davvero un ascoltatore di quelli proprio assidui, si sì, segue ogni martedì, ogni nostra puntata, ci scrive, insomma, ci chiede dei brani, e a noi fa piacere, insomma, ricevere, se qualcuno questi ci messaggi. Segua e ci sia anche questo feedback con il pubblico. E ancora c'è il nostro sito www.radioetnespresso.it e la nostra applicazione Radio Etne Espresso, che potete scaricare gratuitamente, tramite cui potete seguirci anche in streaming, quindi non solo dalla Cese, dal Catanese, da tutta la Sicilia e l'Italia, ma soprattutto e anche da ogni parte del mondo, perché noi qui davvero ormai, grazie anche al web, non abbiamo più barriere, non abbiamo nessun limite spaziale. E non so, con questa base mi... che bel groove, cioè Riccardo, me la sto godendo, è bellissima. Ragazzi, ora qua in regia il nostro Bertani cerca di distrarmi, ma io c'è la musica, no, di Antonio Monforte. Ha distratto me in realtà. Antonio, sì. Ci senti? Questa è una canzone che sta per nascere. È una canzone che sta per nascere, quindi in diretta, direttamente stiamo seguendo la creazione. La ragazza del bar. La ragazza del bar. Che non sono io. Stasera Giovanni Vasta, Marco Bertani qui vicino a me. Oggi mi fa vedere dei video. Vabbè, c'era un video cosa. Della ragazza del bar. Sì, c'era proprio la ragazza, quella del bar, così col gremiolino, proprio che ti serve al bar. No, perché la ragazza del bar spesso è una ragazza, magari è laureata, è un medico, è una cantante, è un'attrice, non si sa, però la gente non vede oltre il caffè, quindi entra, prende il caffè, magari ci prova, ma non sa chi è veramente davanti, perché siamo pieni di pregiudizi. Quindi la ragazza del bar è una cantante di blues. La ragazza del bar è una cantante di blues. Ma la gente non sa, non vede oltre un caffè. E poi si va avanti così. Avete visto qual è, anzi ascoltato, qual è il bello del Marchi Club? Cioè abbiamo un artista qui, nostro ospite questa sera, anche di un certo calibro, di una certa esperienza a livello di carriera musicale e anche personale, perché non hai più 20 anni, ma la cosa bella è questa, la coscienza. Perché non fare ha 20 anni? No, nel senso è un ragazzo, però voglio dire... Ha fatto 32 anni. Più cresci... Erano 29. Stai incartando, Carlo. No, vabbè, ok, sono partita male, ecco, lo ammetto. Volevo semplicemente dire che ovviamente anche crescendo, andando avanti con l'età, settimana scorsa era qui con noi Rossella Liana, abbiamo avuto proprio modo di parlare e di capire insieme come crescendo, all'aumentare ovviamente anche dell'esperienza vissuta, e quella ovviamente in campo musicale, quindi esperienza più pratica sicuramente sul settore, inizia ovviamente anche a esserci più consapevolezza nel fare musica e anche nell'esprimersi improvvisando, e quindi questo è il bello, è, la, diciamo, quella caratteristica particolare speciale che solo il Marchi Club può offrirvi, perché questo non capita sempre e non capita spesso soprattutto in radio. E quindi Antonio, io ti giuro, ti lascerei suonare queste due ore. Che poi no, io a questo punto, guarda, te la lancio proprio così, non importa scaletta, non importa più niente, qui andiamo a improvvisare. Vado così, sì, improvvisiamo, quindi regalaci qualcosa. Dai, noi volevamo sentire in realtà. ma in realtà era bello poter sentire un pezzo, qualcos'altro, insomma. Io volevo dire una cosa prima che continuiamo, perché poi finisce che la puntata andiamo avanti, giunge a conclusione, noi abbiamo lasciato diverse cose in sospeso. Allora, tornando proprio al disco Cuore Tradito, vorrei dire chi ha curato i suoni: Riccardo Samperi, che magari ci sta ascoltando. È doveroso, sì, no, Antonio? Uno dei, diciamo, dei, come si può dire, dei pionieri degli studi, diciamo, di tutta la Sicilia, no? Quindi un grande fonico, ingegnere del suono. Ho scelto di fare il disco lì perché effettivamente suonare un disco chitarra e voce è una cosa un po' complicata, anche se all'apparenza sembra una cosa facile, però poi escono fuori tutti i problemi del caso, no? Perché escono fuori tutti i difetti, anche se vuoi. Ogni sfumatura emerge in maniera evidente. Ecco, perché da un lato, sì, perché se da un lato acchiappi tutte le sfumature, appunto, quindi il lato emozionale, no? del chitarra e voce, però è anche vero che escono fuori anche tutti i difetti, per cui bisognava curare il suono in un certo modo. Però dobbiamo dire questo, che Cuore Tradito è un disco con dei brani che riescono comunque a toccare l'anima dell'ascoltatore, pur non avendo altre sovraincisioni. Proprio il disco è registrato chitarra e voce, voi sentite una chitarra e una voce, stop, nient'altro sopra. Anzi, invito gli ascoltatori a contattare Antonio, anzi farci dire, Antonio, com'è possibile acquistare il disco? Vabbè, il disco è possibile ascoltarlo, diciamo, su YouTube, così per avere un'idea del lavoro. Si può anche acquistare fisicamente poi nei soliti portali digitali di tutto il mondo, e poi si può andare a prendere, che è la cosa più bella, perché lo tocchi con mano, no? Poi prendi la copertina, leggi tutte quelle... il famoso, diciamo, mito della copia fisica, no? Esatto. Che ormai un po' si sta perdendo, esatto. Però... E si può andare a prendere da Riva a Catania, oppure da Arti Sonanti, sempre a Catania, dove ci sono i chioschi, in via Umberto, sì. Per chi non fosse pratico del posto. Beh, sono due negozi storici, io mi ricordo da ragazzo andavo lì, qualsiasi cosa cercavo, c'era un tizio che mi guardava, io che so, chiedevo un disco di Chet Baker, lui mi guardava e diceva: terzo scaffale in alto a sinistra, lo prendo lì. Peccato. Senti, che ormai un po' si sia persa, sì, questa, sì, cosa, sì, ma non è che, si sia persa, e naturalmente la cultura è cambiata, quindi i giovani non sanno questi tempi moderni, vero? I tempi moderni. Senti, Antonio, disco. Senti, invece, un po' voglio spezzare questo dialogo tra noi, che comunque stanno ascoltando tantissime cose sicuramente, però soprattutto alla musica, quello che noi qui facciamo in questo programma e che ci contraddistingue. Vogliamo sentire qualcos'altro? Cosa ci fai sentire? Ti faccio sentire un pezzo vecchio, un pezzo vecchissimo, una cosa che risale. Questa è una canzone che in realtà in inglese si chiamava I Am Crazy, è un brano che mio nonno cantava nei pub della Bretagna, non so se tu hai girato quei pub nella Gran Bretagna. Purtroppo no. E lì spesso trovi dei musicisti di strada con la chitarra che dedicano queste canzoni passionali alle donne, e poi a volte va a finire come il mio carissimo nonno, che poi si innamorò di questa barista e diventò pazzo totalmente. Lui per fargli la corte tutte le sere andava in questo pub, era un pub tra Londra e una periferia, e gli dedicava tutte le sere questa canzone, e naturalmente per essere lì al bar beveva. Sì, noi vogliamo bere la tua di musica, Antonio. Sì, no, spese una fortuna e fece questa canzone in inglese, io l'ho tradotta in siciliano. In siciliano, sì. E allora raccontacela. Yes. E bella siccome arrampicanti che s'abbrancica ne mura, accicca la vita. Ti faccio roba con i cute vesti trasparenti e non t'ammucinenti. m'ombriaca i tamuri e mi passa in ciotocchi, mi surono in mano e mi abbatto con i fotti, non c'è spazio nella mia testa per poter ragionare, un corio ci riveggio, non m'hanno mai raccolto. E sono pazzo, pazzo, pazzo, pazzo di tia. E sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo per te. Ti toccassi e ti talio, ti vasassi magari peri, ci trovo qualche cosa che poi mi fa scattiare. Ma un piccassi in ciotoletto, ti tenissi in ciameucca, ti scincissi a menzerenti, per non farti scappare. E sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo di tia. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo per te. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo di tia. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo per te. Sì, una luna troppo china, a sto cielo un poco grigio, tu sei una bella luce che mi vola a rospicchiare, sto fuoco in ciari mia ci sta poco a picchiare, ci vuole tutta la vita per farlo astotare. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo di tia. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo per tia. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo di tia. A sogno pazzo, pazzo, pazzo, pazzo per tia. A sogno pazzo, pazzo, sogno pazzo, pazzo di tia. A sogno pazzo, ha, ha, ha, è pazzo. Sogno pazzo! Su Radio Etna Espresso, Marchi Club. Con Ulisse, con Ulisse, sono sicuro di trovare quel che cerco tra le scarpe di Ulisse. Se vuoi provare vera comodità, calza sempre da Ulisse. Sobrio, eleganti, ma sempre Ulisse. Per lui, per lei, per i bambini. Se cerchi l'eleganza, ma vuoi anche sostanza, per essere alla moda, scegli in grande, qui si trova. Anche per bambini, i modelli più carini. Le scarpe per lo sport, gli accessori un po' per tutti. Ulisse già si sa, niente trucchi. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Pizza Family, stuzzicheria, focacce farcite, scacciate, pizze sfiziose e maxi. Se prendete tre pizze, Pizza Family vi offre una margherita in omaggio. Pizza Family, Corso Savoia 143 a Cireale. Servizio a domicilio. Chiamateci allo 095 764 98 70 o al 338 71 83 469. Non chiuderti in difesa. Vai all'attacco. La pubblicità resta sempre l'anima del commercio. La pubblicità non è una spesa sociale superflua. La pubblicità evidenzia le qualità della tua azienda e le tue motivazioni. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16. Vai all'attacco! Radio Etna Espresso. Marti Club. Yeah. diceva il caro John Lennon, you may say I'm a dreamer. Beh, qui siamo tutti dei dreamer, dei sognatori, perché abbiamo messo su questo format insieme al radiofonico e musicale folle del tutto, che si chiama Marchi Club, che vi offre della musica inedita e soprattutto live in diretta radiofonica e qui alla Space Music di Acireale, a cui siete tutti invitati a recarvi, a venire in via Sorelle numero 93 ad Acireale, perché ogni martedì tra le 21 e le 23 ospitiamo diversi artisti che vengono qui proprio a offrirci la loro musica suonata rigorosamente live, mentre noi siamo qui un po' a farci quattro chiacchiere insieme a loro. Senti Carla, io vorrei correggere una cosa che hai detto due volte oggi. Cosa? Oddio, cosa ho sbagliato? Dovevo dirlo dietro le quinte, ma lo dico qui, così è anche istruttivo nei confronti di chi ci ascolta. Inizio a temere, ad aver paura. Allora, noi qui facciamo suonare degli artisti che fanno musica originale. Inedita, sì. No, inedita, lo sai cos'è? Quando perdonami. Tu suoni per la prima volta una cosa. In realtà stasera abbiamo sentito un brano inedito. È vero, la ragazza del bar. Che purtroppo ormai è di... la ragazza. Quindi questa sera abbiamo fatto musica inedita. D'altronde siamo in atmosfera da club, quindi voglio dire. Perché senti, in realtà è uno di quei termini che ormai, beh, ce ne sono tanti che vengono usati malamente e poi purtroppo si tende tendono ad assumere quel significato, perché effettivamente vengono usati un po' scorrettamente. Quindi il termine giusto è originale. Antonio. Io sono ci dentro un bar. Ecco, noi con la sua chitarra. Quindi. Qui abbiamo Marco Bertani in regia che si distrae, se ne va, esce fuori. Sta parlando così. Sì, ha delle distrazioni. Siccome abbiamo finito di suonare, quindi. E con la ragazza del bar. I musicisti, giustamente. Sai, quando finiscono di suonare rimangono da soli, come comuni mortali, no? Alcuni no. No, parliamo, se pensiamo parliamo a Axl di musica Rose. Su che sennò qua so. Divaghiamo. Caro Antonio, ma visto che proprio così ci stai suonicchiando qualcosa, bella questa base splendida, sì, a questo punto. Sì, una canzone che si intitola La città dorme già. Ecco, ma che dici? La ascoltiamo? Ci proponi qualcosa? Si finisce di suonare. La gente se ne va, io resterò solo, non avrò con chi parlare, la città dorme già, la città dorme già. Che cos'è che non va? Questa notte sono solo. Che si fa? Vorrei parlare con qualcuno, ma non c'è nessuno. Non mi resta che sfogare la mia rabbia in un bicchiere e il barman dammi da bere e il barman dammi da bere. Oh, che cos'è che non va? Questa notte sono solo. Che si fa? Vorrei parlare con qualcuno, c'è nessuno. Oh, che cos'è che non va? Questa notte senza idee. Che si fa? E si è nascosta anche la luna, ma dove sarà? Luna, esci fuori, fammi compagnia. Sarai nascosta dietro una nuvola. Che cos'è che non va? Questa notte sono solo. Che si fa? Vorrei parlare con qualcuno, ma non c'è nessuno. Yeah. Che cos'è che non va? questa notte senza idee che si fa, e si è nascosta anche la luna, ma dove sarà? Antonio Monforte qui live dal vivo per noi al Marquee Club. Grazie Antonio per quest'altra perla, perché mettere su un programma del genere e avere l'onore di un ospite di questo calibro è davvero un piacere, è un onore proprio nel vero senso della parola. Quindi ringraziamo te, siamo quasi in chiusura, e a questo punto, oltre che ringraziarti, perché poi sai, sì, così il grazie, le parole rimangono lì, lasciano il tempo che trovano, abbiamo voglia di girarti un invito, perché noi qui al Marquee Club abbiamo sempre la buona abitudine di fine programma andare magari a mangiare un panino, a bere una birra con i nostri ospiti. Quindi ci sta la foto di rito, la pubblicazione della foto, il video e quant'altro sulla nostra pagina Facebook, quella del Marquee Club, e poi così ci riuniamo un attimo, smontati gli strumenti, quando il nostro caro Pandolfo finalmente finisce, chiude anche la regia radiofonica, e insieme al nostro Marco Bertani e Riccardo, i nostri ospiti, andiamo solitamente nel nostro posto di ritrovo, che noi ormai, e te Riccardo, davvero siamo degli abituè. Beh, è la seconda stagione che passiamo in questo modo, quindi noi finiamo il programma e scappiamo da Sketch. Da Sketch, perché oltre che essere una caffetteria e fumetteria, è aperto non solo a colazione con cornetti, spremute, frullati, e davvero estratti che preparano proprio sul momento, quindi roba freschissima da offrire anche a chi magari, sai, c'ha un po' la fissa della palestra, della dieta un po' tutta precisina, puntuale, iperproteica. Ma è aperto anche nel pomeriggio, perché fa da fumetteria, da caffetteria, è un punto di ritrovo per gli aperitivi, oppure per una cioccolata calda, per un tè con le amiche, e poi anche alla sera, perché oltre a offrire i ramen, i panini Sketch, le insalate, tanta tanta roba in menù da mangiare, tutti i venerdì sera offre anche della musica live, in particolare questa settimana anche di martedì, perché domani di mercoledì. Meno male che mi hai corretto, vabbè, il 22 marzo è domani. Sto in mercoledì. Silenzio, ma ti ascolto, ecco. Dopo dico ancora un'altra cosa. Io parlo tanto e ascolto poco, è vero. Il mercoledì 22 marzo, cioè domani sera, Riccardo Mazzaglia si esibirà con la sua musica acustica dal vivo da Sketch. Venerdì 24 marzo invece i Cotton Club Project, e quindi la sera da Sketch potete andare a bere una birra, a prendere un drink, e se dite di aver ascoltato questo spot proprio al Marquee Club su Radio Etna Espresso, potrete richiedere gratuitamente la tessera per avere degli sconti e delle promozioni sulle vostre consumazioni. Sketch Caffumetteria e Pub è in via Felice Paradiso 58 da Cireale, e anche online su Facebook alla pagina Sketch Caffumetteria e al sito web www.sketchcoffeecomics.com. Il momento dei ringraziamenti l'abbiamo concluso, cos'è che volevi dirmi? No, volevo dire due cose. Uno, che Sketch è l'unico posto ad Acireale in cui si suona musica dal vivo in questa fase storica, quindi è una cosa un po' da lodare, no? Un fatto. E un'altra cosa, che quando io andavo a scuola non c'era un posto come Sketch, perché è aperto anche di mattina. È vero. Quando macaliavo non sapevo dove andare. Sono 24 ore in pratica. Chi lo sa se i ragazzi che sacaliano vanno allo Sketch? Meglio che non lo diciamo in radio, sennò i genitori li vanno a cercare lì e li sgamano. Guarda, ecco. Che ormai c'è il discorso quello che tramite una password, comunque un account, puoi controllare se il figlio è a scuola. Questi tempi moderni, come dice Antonio Monforte, stanno distruggendo anche queste piccole cose come la caglia scolastica. Quindi ragazzi, ribellatevi per la vostra privacy, però è anche vero che, cavolo, davanti ai genitori, voglio dire, è davvero difficile, come dire, far valere la propria privacy, perché... Mi senti? Ci senti? Un attimino, perché... No, sai cos'è? Lo stiamo perdendo, forse perché c'è gente di là, perché ho visto entrare altri musicisti. Sono entrate altre persone in studio e in sala. E quindi Antonio è sparito. Cioè, questo è il bello della diretta. Noi stiamo parlando con Antonio. Antonio invece magari è fuori dalla sala, che sta fumando una sigaretta con qualcuno. Insomma, questo perché? Sono tornato. No, è qui, è qui. Scherzavamo, ovviamente scherzavamo. Eccoti. C'è stata un'invasione di amici. Esatto. No, mi piace che anche tu lo confermi, proprio perché qui siccome è tutto live, cioè facciamo tutto in diretta, quindi è ovvio che ci stia la chitarra di sottofondo mentre noi parliamo, cioè ci sta tutto. Il bello è proprio questo, sì, a testimonianza della nostra di mimo pure, perché caspita, da dietro il vetro ci sono degli amici che mi fanno segnare dirette, ci no, sta. Sembra un po' come in TV, no? Sono quelli che ti fanno i segnali, pubblicità, andiamo, esatto, in onda, c'è eccetera. Manina, c'è Maridea che mi fa saluta la gente a casa, salutiamo. Ciao. Allora salutiamo Maridea Marletta, che è qui con perché noi. Viene qui per tutte le puntate, è stata qui, ecco. È vero. Ciao Mari. Alla voce era Marco Bertani, okay. Alla regia che... c'è Maridea, c'è Tania, c'è Harry, possiamo salutare il tuo batterista Harry Found, Harry. Esatto, Harry Ford, io direi qualcuno che ha chiamato, esatto, Harry Ford. Ormai qui al Marchese l'abbiamo ribattezzato Harry Ford. Abbiamo anche Alessio in studio. Questa Alessio Carastro, perché... c'è il Carastro, sì, perché c'è anche Tania, c'è anche... Pulvirenti, Tiziana anche... Pulvirenti. Sì, sì, c'è anche una rappresentanza della scuola in cui diciamo insegno. In cui insegni e poi chitarra. Tra l'altro ha collaborato sul progetto di Cuore Tradito, quindi ETRA, la scuola di Linera, Santa Venerina. Quindi ti è molto vicino, perché sì, comunque collaborando. Caro Antonio, noi stiamo ormai quasi in dirittura d'arrivo, stiamo terminando queste 2 ore di programma. Io ti invito a ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando quali sono i tuoi contatti, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti live, non solo, giusto anche per sapere come rimanere in contatto, come seguirti. Allora, sto preparando un live sulla falsariga della presentazione del disco di Cuore Tradito, quindi una serata in teatro, perché in questo momento sento l'esigenza di avere un approccio diverso, sì, di fare un concerto proprio in teatro, la gente ascolta in silenzio e si gode diciamo le canzoni. D'altronde il disco si presta, voglio dire, sì sarai accompagnato da qualcuno in questo? Ma credo di fare da solo, da me. Forse ci sarà qualche ospite durante vabbè, la mi serata. Chiami il classico detto, proprio giusto per scadere nel banale, no? Cioè chi fa da sé fa per tre. No, siete sì, in due, tu e la tua chitarra, quindi. No, vabbè, sai benissimo. Vieni in questo contesto. In estate giro nelle piazze con tutta la band al completo, per cui. E poi dove possiamo anche seguirti? Seguirmi sulla pagina Facebook, come ormai quindi immagino tutti. basta cercare Antonio Monforte, la classica frase di una mia canzone, Furde e Malavendita, siamo tutti là. Quindi su Facebook. Verissimo. C'è un sito, già vabbè che ormai Facebook sì, è abbastanza interattivo, sia il profilo dove cazzeggio con tutti gli amici quello personale, ecco, e vabbè. Poi Maridea mi fa segnare tipo non dire cavolate, per dire che cazzeggio poco, ecco. Sì, in radio si dice cavoleggio. No, ma uso la pagina, dico la verità, uso la pagina, è stata una mia scelta, perché arrivato a un certo punto ho capito che questo social a volte serve. Sfocia. No, sfocia nella banalità, poi spesso si va a finire a fare discussioni, si litiga per niente, perché guarda, io credo sia anche diciamo il versante un po' più istituzionale di Facebook, sì, quindi la pagina ti aiuta a gestire gli eventi, ma, e quant'altro. Infatti ho deciso sia nel profilo che nella pagina di parlare solo della mia attività musicale, quindi e hai fatto ho smesso la scelta anche migliore. di parlare di calcio, che è una cosa che mi piace molto, però mi occupo solo di musica, delle cose che faccio, e quindi chi mi segue sa che faccio solo quello. Chi e se vogliono parlare d'altro no, ti vengono a cercare, insomma. A chi non interessa, naturalmente è giusto che non se ne faccia niente del mio contatto. Dopo ti abbracciamo fisicamente, ma soprattutto facendo sentire quella che è la title track del disco, cioè la canzone. Avanti, che dà ora il ti correggo titolo. ora ti correggo io adesso, non ridacchiare, la title track del disco, cioè il brano che dà il nome. Ci punzecchiamo ogni disco. Tanto spettacolo. Io la passiamo qui. Mi fa piacere che passate Cuore Tradito, e volevo dirvi una cosa. Io chiudo in due parole. Sì. Ringrazio chi ci sta ascoltando da casa, chi ci sta ascoltando sul web, streaming, chi ci sta vedendo sulla diretta di Maridea. Maridea invece sul web è uno spettacolo, è la regina del web. Una volta era la pantera di Pennisi, la regina del web. Non diciamo queste cose. E praticamente volevo ringraziare i tecnici, volevo ringraziare voi che mi avete invitato. Grazie a te. Radio Etna Espresso, sono stato ospite diverse volte della radio, vengo sempre con piacere. Fare un live così è una cosa molto bella per un musicista che ama suonare dal vivo. Grazie a tutti, un abbraccio, vi bacio e poi ci facciamo il selfie. Assolutamente, lo troverete sulla pagina Facebook del Marchi Club. Quindi appuntamento a martedì prossimo, sempre tra le 21 e le 23, sulle frequenze di Radio Etna Espresso, perché ci sarà una nuova puntata del Marchi Club, la quarta della seconda stagione. Quindi cliccate mi piace sulla pagina Facebook, così rimanete aggiornati, anche avrete modo di avere le anticipazioni sulla prossima puntata. Grazie ancora Antonio Monforte, al nostro Marco Bertani, a Giuseppe Pandolfo, a te Riccardo Trovato, per condurre insieme a me questo programma. Grazie a tutti quelli che lavorano qui dietro per noi e per voi gli artisti, ma soprattutto per la musica originale. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao a tutti.